riferimento anche la, la montagna, quella che so io, con i volanti, poi di Messner sotto la... Vai. Ho suonato a San Vito di Cadore nell'inverno e c'era l'antenna nei miei rapporti con l'alta montagna. Mentre le montagne dell'Appennino invece della zona mia le conosco perché allora camminavo molto. La montagna più alta lì attorno è il Corno delle Scale, che non è neanche 2000 metri, 1997 ho preso la montagna. E tutti i montanari, quelli alti, cioè il Corno delle Scale, 2000 metri. Dico, signori, sul Corno delle Scale hai imparato a sciare, tomba, c'è stato campione del mondo, cioè, qui, piano, il Corno delle Scale 2000, qui abbiamo un pochino più là il Cimone, là, il Monte di Pavana è 1000 qualcosa, e anche di fronte c'è il Monte della Torre che è sui 1000 e qualcosa. Noi siamo a 500 metri, dice, ah, è collina, no, non è collina, è montagna, perché se hai dietro le spalle un monte che arriva a 1000, l'inverno è duro, l'inverno è molto nevoso, c'è molto freddo. Ci si scalda la pelle? No, ci si scalda la pelle non funziona, quindi patisce dei geli mortali d'inverno, per cui il pelle è stato cacciato via. Messo, ma chi si scalda legna come te deve essere sempre lì a mettere dentro la legna e quindi sono molti, con la differenza fondamentale che i nostri monti sono verdi, sono puro di verde, sono di un verde rigoglioso, tutta questa stagione è bellissima, mentre le altre vette sono di solito lunghe. Ci sono verso il Corno alle Scale, finisce la zona del bosco e ci sono le piagge nude con il coso di baggioledi. Tradotto? Allora, puoi chiamarli baggioli, puoi chiamarli pugnatini, puoi chiamarli più, puoi chiamarli italiano mirtilli. Allora, e lì si fanno anche i funghi su, no? Ma dura arrivare lassù, io ci arrivavo tranquillamente, adesso un po' meno, adesso più, perché faccio fatica ad arrivare da casa mia al cancello, che sono 10 metri, quindi è in salita però. E quindi la montagna, l'alto, montagne che conosco proprio le mie zone, le mie sono proprio testarle, testone, a lì. C'è il lago, lago artificiale, l'anno sono 3-4 laghi artificiali, in quattro vallate diverse. C'è il Brasimone, dove c'è una centrale nucleare, che però c'è il trattamento che mai è entrata, il più grosso Suriana, poi c'è Pavana e poi c'è un piccolo di Demolione Tronchi, non so cosa c'è. Da bambini c'era il fiume. Da bambini ci andava al fiume in questa stagione, quindi bisognava fare il bagno dopo il 21 giugno, o meglio dopo San Giovanni, perché altrimenti non era salutare, per ragioni misteriose. Nel fiume ci avevamo dalla mattina alla sera, siete che i nostri genitori, i nostri nonni, erano preoccupatissimi, infatti nessuno ci ha mai fatto niente. Nel fiume non si cammina, si saltava di sasso in sasso, tanto vero come amico, che veniva quel fiume con un paio di capre, mi raccontava qualche giorno fa che quando una capra gli scappava, che andava a toccare l'erba dove non doveva, lui la mandava nel fiume, perché sul fiume, nel fiume era più svelto lui che la capra. Perché sì, saltavamo di sasso in sasso. A volte, a piedi nudi naturalmente, a volte invece di prendere il sasso di pianta, lo prendevi di punta e di un dolore che raramente mente umana può immaginare. Come dico, il dolore è superato soltanto dalla famosissima pallonata nei. Adesso nel fiume non c'è più nessuno. Allora, cominciamo per fare il bagno. Ah, si beveva l'acqua del fiume. Bastava, come dico, dire acqua corrente, pronunciata la polonese, acqua corrente. Ci passi il serpente, ci beve Dio, posso berci anch'io. E allora uno andava niente. Ci facevi il bagno, prima delle pozze. Ogni tanto il fiume ci fa una pozza grande che si notava. La terza volta che ti ripescavano, imparavi a nuotare. Perché c'erano quelli più grandi, no? Ti vedevano che davi la punti, ti prendevano la terza volta a cagnolina prima, e poi dopo alla spadona, o alla marinara, che era così. All'americana, o che era il crollo, allora non lo battevano, sbattevi il crollo. Su, poi era grande quello lì. E mio figlio un giorno mi ha detto, ma come nuoti male, va? Ecco, sono convinto, perché io non ho avuto un babbo che ti ha pagato, che mi pagava le lezioni. Io nel fiume di Tocara. Poi, dal fiume siamo passati al bacino di Favara, che come guardandolo adesso come facessimo a fare il bagno di dentro, non lo so ancora. E c'erano le prove di forza, prima attraversare in largo il bacino di Papala, poi dopo la prova di attraversarlo in lungo, e poi fatta questo si passava con le prime macchine, eccetera, la prima volta a piedi, che sono una decina di chilometri forse, vedi, da Papala al bacino di Suviana, e poi al bacino di Suviana, che è veramente là, diciamo, là bello, eh. E allora c'era la prova di attraversare il bacino di Suviana, cosa che adesso faccio 3 metri nell'acqua, ecco, l'acqua è fredda, di molto, ci vuole un coraggio leonino. Oppure, quello che è successo, poi ho fatto 2 bagni, la prima volta che sono andato cauto, timoroso, nell'acqua, ho beccato un sasso, sono scivolato, e sono piombato dentro, e un uomo gli aveva detto, ti sei tuffato? Ho detto, sì, ma si sta quasi bene. Mentendo. Altrimenti ci si mette un cazzone. Prima bagno i polsi, poi anni fa ho preso la canoa, me ne hanno rubate 3. C'ho la quarta. E sono indeciso se portarla e farmela rubare o farmi la rubare, la roba, la roba. E così, questa è la storia fluviale dell'Appennino. Perché è bello, l'Appennino Pavana non è soltanto monte, non è soltanto camminare, non è soltanto andare a fumi, andare là, è anche vita balneare. E quindi puoi unire la montagna e il mare. Benché il mare non sia un elemento che... Loriano, il mio socio, ogni tanto va al mare, lui si mette, la spiaggia non la guarda neanche, lui si mette su un albero e scrive, vicino all'albero. Io il mare sono... Quando la gente mi dice, ma fare il bagno nel lago, io non lo so, perché c'è quella terra, quella cosa lì. E io dico, fare il bagno nel mare no, perché sono quelle onde che stanno la sabbia, non... la sabbia che si... da tutte le parti, c'è sabbia dappertutto, per merito. Ho visto il mare per la prima volta a 12 anni. Quindi voglio dire, allora lo usavo così, insomma. Il mare a 12 anni e non ho mai avuto un rapporto così col mare. Ci vado, ma... E poi tu... questi ombrelloni che ti infilano, queste cose, queste... è più bello la rude vita dei Suviani, del club della vela, dei Suviani. Perché certo, perché hanno un paio di catamarani, le canoe ci sono, quando non me le rubano. Così. Mare e monti. Nella le cronache Pafani che si concludono con... con uno sguardo, non direi nostalgico, ma con una... mi sembra un modo di finire un romanzo che sovverte il lieto fine che magari ci si aspetta, ma intanto non è un romanzo che necessiti di un lieto fine, ma c'è uno sguardo un po' indulgente sulle persone che sono rimaste, su quelle che sono andate, su quelle che ti incontra per strada, dice tu cugini che vai a cercare le storie, senti questa... è uno sguardo, ecco, più indulgente o più nostalgico o indulgente, nostalgico, È quello che succede ai funerali di padre. Se naturalmente tu non sei della famiglia, quindi sei, vai, ma non sei coinvolto direttamente, no? Succede così ai funerali di padre. Arrivi e vedi le donne che vanno e entrano in chiesa e gli uomini si fermano di fronte, c'è un cucciolo, c'è una panchina, qualcuno fuma una sigaretta, si comincia a parlare, gli argomenti sono fanno i funghi e la luna, che sulla storia mi sto vedendo sulla luna che non si capisce bene, non ho mai capito che luna deve essere per fare funghi. Poi i pomodori che stanno di una volta non hanno bisogno, e poi ci sono gli elementi eccezionali. Per esempio, un paio di mesi fa, un poveretto, tornando da Prato, credo, ha beccato, è uscito con la macchina dalla strada e ha beccato un pezzo così fra un guardrail e un muro ed è finito nel bacino di Paolo. No. E quindi questo è un avvenimento eccezionale in cui tutto il paese parla e riparla con ipotesi, supposizioni, ma avrà voluto ammazzarsi, oppure avere delle idee di chi l'ha detto, eccetera. E questi sono gli argomenti. Oppure, o te, che dovevi venire a giustare quella cosa, sono due mesi, e adesso vengo poi. Poi, ci aspetta tutta la messa, stanno dentro, quando cominciano a uscire, ci si alza tutti in piedi, si va a salutare il parente, la cosa, eccetera, e poi pochi volonterosi salgono al cimitero e gli altri salutano e vanno a casa. E quindi c'è, come posso dire, questo senso particolare della vita, no? Questo senso di conoscenza, ci sono tutti, al funerale c'è tutto il paese al funerale. Conosci tutti quanti da una vita e ci sono però delle scoperte che tutti i pavanesi non sono pavanesi. Per esempio, ho scoperto da adulto che Raullo era calabrese, con calabrese di Palama, no? Di Palama, ma calabrese. La sorella, la Cocora, ma conta cavo un pochino, era calabrese. Come fa a essere calabrese? E quell'altro è sardo, e quell'altro c'è, va bene, poi alla fine ci sono. Sì. Io stesso sono modenese. E quindi, però, ci si. Come posso dire, ci si custodisce, ha il difetto di tutti i piccoli paesi che il pettegolezzo vola severo e tremendo, insomma, il pettegolezzo del paese, voglio dire, lo fanno i grandi, diciamo, i grandi figiornali, poi che non faccio il pavanese meglio, il pettegolezzo è ben chiaro, però è piacevole starci perché hai sempre un qualcuno che ti dà una mano. Quando la caldaia a pelle mi si bloccava, il che avevo tre volte al giorno, ho imparato delle variazioni, imprecazioni, arrivavano sempre gli amici. Quello che si intendeva però di caldaia a gasolio, diceva io sulla caldaia a pelle, quello invece che arrivava, con la tecnica della botta. E così ci si aiuta. Cosa di città, anche se in Cirenaica, dove io Paolo Fabri è in Cirene quartiere, chiamato Cirenaica, perché è cresciuto, è nato attorno al 1911, quando si è fatta la guerra di Libia, insomma, quindi si chiama Cirenaica ancora, e lì un piccolo paese all'interno di Bologna, insomma, quindi ci conosce, ci saluta, e finisco qui, ho preso l'abitudine a Paolo, anche passi, vedi uno che non hai mai visto, però lo saluti, buongiorno, certo. E questo anche in Cirenaica mi capita di vedere della gente, dico buongiorno, buongiorno, perché in città non ci si saluta, nel tuo paese ti saluti. non so. Anche non l'ha mai visto. Anche il posto. Anche qui. Si scambiavano i bigiati. E gli antenati di Francesco Guccini avevano delle storie in sospeso con gli antenati di Enzo Biagi, il quale poi ha avuto delle storie in sospeso con altri. Ci sono stati scambi di archibugiati. Adesso, a parte i morti sono sepolti, ma cosa resta nei paesi di questi retaggi? Se resta e si è trasmesso o è rimasta una favola, una favola? No, non è rimasto niente, si divola la gente, si è ammansita. Io quando ieri ti raccontavo queste storie di questi clan di bravi, erano bravi manzoniani molto, che partecipavano per delle famiglie nobiliari bolognesi, gli uni contro gli altri, si parlava con soggiati, si parlava con coltellate. E il torrone criminale di Bologna, Papalino, aveva fatto erano tutti banditi, nel senso di messi al bando per omicidio. Accusati di pena capitale, a parte il fatto che c'era il confine e scappavano i banditi toscani, scappavano in Emilia, e gli emiliani scappavano in Toscana, bastava passare il fiume dall'altra parte, quindi come in certi film americani che passi il confine di Stato di un altro Stato e non ti beccano qui. E così la legge del torrone criminale di Bologna era che se portavi la testa e la mano destra di un accusato di uguale pena eri assolto. Facciamo metà. Sì, allora si davano la caccia questi per procurarsi la testa e la mano destra. E questo storico, bravissimo, insomma, che scrive, lamenta di come quattro fratelli Guccini avessero catturato molti di questi per farsi assolvere. E dico, ma come ti lamenti? Un attimo, ha fatto bene, poverini, altrimenti forse io non sarei qua, non lo so. Comunque, l'episodio a cui si riferisce sono diversi, due episodi. Uno, l'inizio della faida che il clan Biagi spara l'archibugiata a un gruppo del clan Guccini, il clan Guccini aveva un paio di archibugi in più, spara l'archibugiata e quindi ne fa secchi un paio. E lì inizia un altro episodio, sempre raccontato da questo storico, ma non è un dilettante, un storico sterile, impressionista, che è un paesino da cui vengono i Guccini, che è a Monte Acuto, e là su un cocuzzo bellissimo. Alle pendici di questo paese, a Liguri, una sera, tre o quattro del clan Biagi beccano uno del clan, non un cugino, del clan Guccini, solo, c'era la moglie e la madre, ma lui era da solo, lo beccano, gli fanno una bugiata, lo fanno secco, e cominciano a tagliargli la testa. E alle due donne che si disperano, è riportato dal torrone criminale che dice: "Veni, veni, che ti fa vedere come si taglia la cibolla." E qui la gente è così, insomma. E poi, fortunatamente, le cose sono quietate, adesso non ci sono più quelle belle storie. Come mi disse, mi è interessato ai cantastorie emiliani, di certo Marino Piazza, o meglio, Piazza Marino, poeta contadino, con delle storie, quelle bellissime, tremende, tipo la Barbara Ostessa. La Barbara Ostessa è una signora di un foglio volante di cantastorie che rimane vedova, ma lei ha un figlioletto, il giovane amante dice sì, io sto con te, dice però devi far fuori questo bambino, non lo voglio. E lei fa, lo ammazza e lo cucina come spezzatino e lo dà in trattoria. E tutti dicono, come buono, eccetera. Quando un signore dice, caro stesso, vedete qua, io un piccolo dito trovato nel settore capricciante. Allora gli ho detto, intervistavo, dico, senta Piazza, dico, ma queste storie, mi dica la verità, erano tutte vere, erano, caro Guccini, dice, purtroppo che i bei delitti non c'erano sempre. Grazie. discorsi, non abbiamo preso il tuo bugiardo, dobbiamo rispettare i tempi. Ringraziamo Francesco. È l'autore delle più famose marce americane che abbiamo visto in 6.000 film, tipo The Stars and the Stripes Forever, tanto per capirci, insomma. E questo John Philip Sousa ha inventato il sousaphone, che è il basso tuba, è quello che si mette attraverso così e salta fuori un padellone d'ottone per dimensioni. E ricordo questa, da bambino vidi questa banda, che doveva essere però di brasiliani, che mi impressionò moltissimo. Ecco, e poi c'era anche questo, questo soldato nero che per ringraziare dell'ospitalità, immagino, ha preso la chitarra e ha cercato di intrattenere i parenti di Francesco con il suo repertorio. Non so se presumo che spazio nel blues, però non lo so. No, ha piantato lì praticamente subito perché non era stato apprezzato. In compenso Francesco ha ripreso il blues diverse volte, intanto in statale 17, che nella versione di Folk Beat No. 1 è piuttosto spoglio, però se qualcuno la ricorda nel concerto Guccini e i Nomadi è un blues irresistibile, tra l'altro introdotto da una sua espressione che dice molto sul suo lavoro sulla lingua, perché lui fa la differenza tra 17 e una highway che attraversa gli Stati Uniti. Dice, gli americani ci fregano con la lingua. Dunque c'è stata la 17 che è un blues e Al Trist, che era in due anni dopo, che inizia con un'espressione che è proprio quella topica del blues, sul desdei stamattina, la primavera mal piove, e che è la traduzione in dialetto, anche riscoperto molto dopo, la frase delle frasi del blues, I woke up this morning, e il blues era attorno al mio letto. Ecco, quanto ha contato la scoperta della cultura americana, della musica americana, nella tua formazione come musicista, ma in generale? Devo dire che è una grande capacità linguistica, parli il modenese e altrettanto bene del siciliano. Qui non sta. No, c'è questa storia che mi hanno raccontato, mi hanno ricordato, di questo americano, credo, che, o brasiliano, non mi ricordo. Guardare lì, non devi guardare lì. Mi documento. No, perché può darsi che sia lì, cioè, cambiato la fantasia, insomma. Che veniva a mangiare a casa, perché questi americani, arrivati nell'ottobre del 44, e il mulino dei miei nonni era una casa isolata, insomma loro avevano messo attorno delle tende e quattro carri armati che a ore fisse sparavano verso la linea gotica. Per fortuna noi eravamo prima della linea gotica, già liberati dagli americani. E i quali quando sono arrivati hanno trovato della gente che parlava un po' di inglese perché erano stati a fare minatori negli Stati Uniti. E quindi eccetera. E poi hanno trovato anche che si mangiavano delle cose che loro non mangiavano, ad esempio andavano pazzi per la polenta fritta e per le tagliatelle, e venivano spesso alla zanica dei miei nonni. E io invece, naturalmente, già vittima dell'americanismo che sarebbe poi di lì poco venuto, andavo a mangiare con la mensa degli americani, perché c'erano delle cose che avevamo mangiato. Ma avevano fatto avevano un giacchetto in cui avevano messo i gradi da sergente, quindi sì, andavo felice con loro. Anche perché poi, voglio dire, un bambino di quell'età, di 4-5 anni, senza padre, perché era partito poco dopo la mia nascita, è arrivato nel 45, fa tutta la guerra. Una generazione fortunatissima, quella dell'11, ha fatto 7 anni di guerra per il mondo, insomma, e quindi avevo bisogno delle figure paterne, diciamo. Quindi ero sempre in mezzo a questi americani. E andavo a mangiare queste cose buonissime, tipo delle scatole con l'ananas, le fette d'ananas, tonde mai più viste, sono secoli dopo. La Coca-Cola, che anche lì c'erano tutti gli anni prima che arrivasse in Italia la Coca-Cola. Peanut butter, che adesso mi fa schifo, insomma, con grande le cioccolate, le Hershey. Tra l'altro una volta negli Stati Uniti sono stato a Hershey, che è una cittadina, dove il signor Hershey ha inventato i boeri, che sono appesi agli angoli delle strade come le fatti a boero del signor Hershey. C'è una puzza di caccao in questa cittadina insopportabile, e c'è un mausoleo enorme dove nel marmo è fatta tutta, si vede tutta la vita di signor Hershey, di quando un bambinetto andava a vendere i giornali e poi risparmiando sui giornali ha comperato non so che cosa, poi eccetera eccetera eccetera, è diventato il signor Hershey con la cioccolata che io mangiavo da bambino e non sapevo tutta questa bellissima storia del signor Hershey. Non sapevo neanche che il signor Hershey fosse un coglione, insomma. La cittadina però si chiama Hershey, quindi. E quindi queste cose fantastiche. E poi lasciamo lì, come racconto spesso presentandomi a Rigo, tonnellate di roba che a quei tempi non esistevano, tonnellate di carta. Adesso noi siamo sopraffatti dalla carta, ogni giorno ne cacciamo via delle quantità indicibili di carta. La carta allora era preziosa, serviva per accendere il camino, serviva per scopi meno nobili. Non c'erano come sei piani di morbidezza, pietra. L'estate c'era il fiume che passava vicino, ma non ti ricordo. Il fiume era un enorme bidetto. E le riviste in carta lucida, in carta Life, del Saturday Evening Post, questo qui dopo, perché allora non sapevo ancora leggere, ma dicevo Life al massimo. E siano cose fantastiche. Il filo del telefono, del filo da campo del telefono da campo americano, ne hanno lasciato le quantità smisurate, serviva a tutto, serviva dopo, è servito per legare le viti, per esempio, per fare il guinzaglio alle capre, per esempio. Uno si è anche impiccato col filo di vite. E questa abbondanza di roba che aveva. E quindi questo mondo che è cominciato a entrare nella vita italiana. E quindi da ragazzino, se guardavi, andavi al cinema, potevi andare al cinema, andare a vedere i film americani, non quelli italiani ovviamente. Se leggevi letteratura americana e la musica, e lì arriviamo alla musica, era naturalmente la musica americana, la musica. Prima un po' di jazz, prima il jazz tradizionale, il blues, Dixieland, New Orleans, eccetera. Poi i fratelli maggiori o chi aveva, ho detto ma quella è roba facile, ma c'è la musica migliore. Allora siamo passati al californiano a ascoltare Jerry Mulligan, ascoltare quel genere, è già più difficile, perché voglio dire, ma non era facile suonare, o facevi il conservatorio e imparare a suonare il sassofono, altrimenti rita. E poi è arrivato fortunatamente il rock and roll, alla fine degli anni 50, e lì sono tre accordi. E qualunque sciagurato come ciascuno di noi era allora, prendeva in mano una chitarra, faceva questi tre accordi, e cantava, e suonava, e eravamo noi a suonare, eravamo noi a metterci lì. Allora, passavi delle ore a cercare di capire le parole delle canzoni che naturalmente incomprensibili, però fingevi, come spesso fa Celentano, di cantare in inglese. E c'era tutta una tecnica, sì, per fingere di cantare in inglese, eccetera. E lì siamo entrati nella musica, siamo entrati nel blues. E quindi è entrato dentro il blues, proprio ci è entrato come si è entrata, o almeno in Emilio a pensare qua, è entrato il cosiddetto liscio, che non abbiamo mai chiamato liscio, insomma. Per cui io potrei scriverti in un pomeriggio 5 blues e 5 valzer, perché è quello che da quando ero bambino ho ascoltato, ho sentito. È proprio una cosa naturale, che sembra nata con te, ecco. E quindi è nata proprio assieme a tutto il resto. Poi dopo, da più anziani ti corrompi e fai il sofistico, fai l'altro, no, la roba lì, no, ma, cioè. E invece è nata così, è nata proprio con imitazione, ascoltare giorni, giorni, giorni le stesse cose. Ascoltare, poi ci sono i giradischi, perché io adesso parlo di giradischi, ma quanti sanno fra i giorni cos'è un giradischi? È inutile far così, ma ricordo ho visto quest'altro show che sono tornando, sì, lo volevo quelli lì, ma perché col CD sparì tutto quanto. Allora chiedeva quanti hanno la televisione in casa tutti, quanti hanno il telefono, quanti hanno i giradischi? Panico, perché era scomparso il giradischi. Io poi sono partito, la manovella. Due ne ho. E quello puntino. Un Toys e una Kai. Neanche robe fa ancora il bagno nell'arco di Parma, addirittura nell'arco grande.